Ho scarabocchiato il cielo, quante volte l'ho pregato. Incredibile ma vero, quante volte ho trattenuto per la giacca la mia vita, quanti amori ha preso il vento. Come sabbia tra le dita, cerco passo dopo passo qualcuno che mi porti. Lasceremo la tristezza e bucheremo il cielo, questo cielo con noi.